Frattanto, Giuda venne a conoscere il nome dei Romani. Come essi, cioè, sono potenti in guerra e sono benevoli verso tutti quelli che si uniscono a loro. Stringono amicizia con quanti ricorrono a loro e sono potenti in guerra. Gli parlarono pure delle guerre e degli atti di valore da essi compiuti tra i Galati e come li avevano sottomessi e resi tributari. Quanto avevano fatto nella regione della Spagna per impadronirsi delle miniere di argento e di oro che vi si trovano, e come si erano impadroniti di tutto codesto luogo con la loro prudenza e perseveranza, sebbene il luogo fosse molto distante da loro. Avevano sconfitto e inflitto gravi colpi ai re che erano andati contro di essi fin dall'estremità della terra, e avevano costretto gli altri a pagare loro un tributo annuale. Sconfissero pure in guerra Filippo e Perseo, re dei Chittim, e quanti si erano ribellati, assoggettandoli a sé. Anche Antioco il Grande, re dell'Asia, che mosse contro di loro in guerra con 120 elefanti, cavalleria, carri e un esercito molto grande, fu da essi sconfitto. Lo catturarono vivo e gli imposero di pagare, lui e i suoi successori, un grande tributo e di consegnare ostaggi, nonché di cedere le regioni dell'India, la Media e la Libia, con alcune delle sue migliori province, che essi tolsero a lui per darle al re Eumene. Quelli della Grecia, infine, avevano deciso di andare a sterminarli, ma quando essi seppero la cosa, inviarono contro di loro un solo generale, combatterono contro di loro, ne fecero cadere molti trafitti, condussero in schiavitù le loro donne e i loro figli, li saccheggiarono, si impadronirono della loro terra, abbatterono le loro fortezze e se li resero soggetti fino a questo giorno. Quanto agli altri regni e alle isole che si erano loro opposti, li distrussero e li sottomisero. Con i loro amici, invece, e con quelli che si fidavano di loro, essi mantennero amicizia. Stesero il loro potere su re vicini e lontani, e quanti udivano il loro nome ne avevano timore. Quelli che essi vogliono aiutare e far regnare, regnano. Quelli che essi invece non vogliono, li depongono. E così si sono levati molto in alto. Con tutto ciò, neppure uno di essi ha cinto il diadema, né si è rivestito di porpora per grandeggiare. Si sono dati invece un consiglio, e ogni giorno 320 uomini si consultano continuamente intorno al popolo per il suo buon andamento. Ogni anno affidano il potere su di sé e il dominio su tutta la loro terra ad un solo uomo. Tutti ubbidiscono a questo solo, e non vi è tra loro né invidia né gelosia. Giuda, pertanto, scelse Eupolemo, figlio di Giovanni, figlio di Accos, e Giasone, figlio di Eleazaro, e li inviò a Roma per stringere con essi amicizia e alleanza, affinché li liberassero dal giogo dei Greci, vedendo come il loro regno era deciso a ridurre Israele in schiavitù. Giunsero a Roma dopo un viaggio molto lungo, entrarono nel Senato e, presa la parola, dissero: «Giuda, detto Maccabeo, i suoi fratelli e il popolo dei Giudei ci hanno inviato a voi per stabilire con voi alleanza e pace e per essere noi iscritti come vostri alleati e amici». Il discorso piacque ai presenti. Ecco la copia della lettera che essi fecero incidere su tavole di bronzo e che inviarono a Gerusalemme perché vi rimanesse come documento di pace e di alleanza. Sia bene ai Romani e alla nazione dei Giudei, in mare e sulla terra per sempre. La spada e l'inimicizia siano lontane da essi. Se sarà mossa guerra per prima ai Romani o a qualunque dei loro alleati in tutto il loro dominio, la nazione dei Giudei combatterà al loro fianco, come le circostanze permetteranno, con cuore sincero. Non daranno ai nemici né forniranno loro grano, armi, danaro o navi, secondo la decisione di Roma, ma osserveranno i loro impegni senza pretendere nulla. Allo stesso modo, se alla nazione dei Giudei per prima sopravverrà una guerra, i Romani di cuore combatteranno al suo fianco come le circostanze permetteranno loro. Ai nemici non sarà dato né grano, né armi, né danaro, né navi, secondo la decisione di Roma, ma osserveranno questi impegni senza inganno. È in questi termini che i Romani hanno stretto alleanza con il popolo dei Giudei. Se dopo di ciò gli uni o gli altri vorranno aggiungere o togliere qualche cosa, lo faranno al loro piacimento e ciò che avranno aggiunto o tolto sarà obbligatorio. Riguardo ai mali che il re Demetrio ha loro causato, abbiamo scritto a lui dicendogli: «Perché fai pesare il tuo giogo sui nostri amici e alleati giudei? Se dunque essi interverranno ancora contro di te, renderemo loro giustizia e ti faremo guerra per mare e per terra».